nel mondo, 160esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni di Romano Donato. Romano Donato, un giovane innamorato del Friuli, delle sue villotte e delle sue tradizioni, è un musicista autodidatta, il cui cuore è pieno di nostalgiche melodie che da alcuni anni ferma sul pentagramma. Di questo giovane vogliamo farvi ascoltare alcuni componimenti su testi friulani, che pur sollecitati dal richiamo di espressioni musicali moderne, hanno cercato di restare il più possibile aderenti allo spirito della friulanità. Con le orchestre dirette da Franco Russo e Alberto Casamassima, trasmettiamo Lune Mate, nell'esecuzione di Albionte Tessarin. E mi fermi sotto il cuore, qui sfida che speleare, che mi ha fatto restare solo. Lune, lune, lune mate, tu asci rudi poi ai voi, finta borde me fruttate, arfavio di lisbussadis. Che si dava in sotti poi, io ti se vivi o c'è fate, c'è spettacolo di d'amore. Ma tu non è mate, par mostrano sasso mari, tu facevi stallo so. C'è fa di stupidate, con che muse di balon, se tu bevi sulla cravate, ti tiravi in tumbo. Io gli dicevi vio c'è fate, c'è spettacolo di d'amore. Ma tu lune lune mate, par mostrano sasso mari, tu facevi stallo su, tu facevi stallo su, tu facevi stallo su. Ed eccovi un valzer lento dal titolo Che Valade, nell'interpretazione di Silva Balanza. Perché la y el arroz de la mestre. bene, ma non sai dove che sta. Oh Signore, ti prego, ti prego, fa sfiorire un erosute, dammi segni la che è parco planti. Su testo di Lodolo ascoltate L'Alpin, canta Beppino Lodolo. Soi nasso sulle montagne, io soi pratica dei tre, ma come che vuoi vinciare, militar mi toce là. La mia mamma si dispere, non trovi il mio destino, mo che ribe primavere, il suo frutto all'alpin. Alpin, io mamma, volente tu nini, alpin, aiute, c'è bongale il vin. Ti prei mamute biele, non sta qui bruntuna, se che è la mia stele, venga con me a cantare. E tu, Mario, te piele, tesoro mio nini, venga con me e vale la marcia dall'Alpin. Stuce spalis o porti ancecano, sarai la forza vive di tutto il battaglione. Marcia su pes montagnis la sera torzeo, per non senti maganis un litro di calvo. Tra la la la la la c'è biel calen, tra la la la la la c'è biel calen. Il Fox moderato il Mus de None viene eseguito da Adriana Pozzetto. Ven. Ed infine, con la voce di Albionte Tessarin, ascoltate questo slow moderato intitolato Kumò Kumò. Finalmente la pluviere mi ha invitato in sto con me. Il mio cuore l'ha fatto in tono, mandi mame o cor con me. O ven, Kumò Kumò, o ven, pare di ti sì. O ven, Kumò Kumò, pare di l'ere tanto ti spietavi, ti chialavi di squinto. L'ere tanto ti spiavi, ritirati in tun pianto. O ven, Kumò Kumò, o ven, pare di ti sì. O ti spietavi, ti chialavi di scrivo. L'ere tanto ti spiavi, ritirati in tun pianto. Ti chialavi di squinto. L'ere tanto ti spiavi, ritirati in tun pianto. O ven, Kumò Kumò, o ven, pare di ti sì. O ven, abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.